Preparatevi bambine, alle ascine messere aprile far ruba cuor, e a tarda sera, madonne fiorentine, quanti ricordi vi desteranno i prati in fior. Fiorin di noce c'è poca luce ma tanta pace, fiorin di noce c'è poca luce, fiorin di brace Madonna dice non nega baci, baciarle piace, che male c'è, è primavera, svegliatevi bambine. Alle ascine messere aprire far ruba cuor. È primavera, che festa di colori, madonne fiori tentaste il genio d'un gran pittor. E allora sera fiorivano gli amori, gli stessi amori che adesso intrecciano i nostri cuor. Fiorin dipinto s'amava tanto nel 400, fiorin dipinto s'amava tanto, fiorin d'argento Madonna amante le labbra tinte, persin dall'avento si fa baciar. È primavera, che festa di colori, madonne fiori, trionfo eterno di gioventù. Madonne fiori, trionfo eterno di gioventù.